4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta bentornati amici di Quattro Ruote e Dintorni, programma di motori, auto e moto come sempre ogni sabato alle ore 21 in collaborazione con gli amici di Quattro Ruote. Immagino che vi stiate chiedendo qualche cosa a proposito dell'audio che sentite. Siamo in esterna, si chiama così quando una radio si trasferisce ad un importante evento internazionale. Siamo al Salone Nautico di Genova, 48esima edizione nel 2008, un salone che dal 62 tiene compagnia a un settore imprenditoriale davvero importante e in forte crescita negli ultimi anni nonostante crisi anche all'interno del settore. È per questo motivo che apriamo subito con un ospite che ci ha fatto compagnia più volte. Sono all'interno dello stand, come sempre si fa distinguere all'interno del Salone Nautico, Ferretti, Gruppo Ferretti. Non ho bisogno di spendere altre parole, parleremo oggi di motori insieme al Gruppo Ferretti, evidentemente di motori marini. Il direttore di una divisione importante si chiama Advanced Yacht Technology, si occupa di sviluppo e prodotto, è colui che guida una specie di team che progetta e realizza le nuove barche. Andrea Frabetti, buonasera ingegnere. Buona serata. Intanto una sua prima impressione di questo 48esimo Salone Nautico. So che lei ha avuto diverse esperienze anche all'estero su altri saloni nautici. Come le sembra il mercato, il movimento, l'interesse della gente quest'anno al Salone Nautico di Genova? Ma ormai Genova è diventato l'appuntamento per la nautica più vasto al mondo, la più grande platea al mondo. Ha superato i saloni americani in termini di offerta, di numero di barche in mostra e anche in termini di visitatori, che anche quest'anno sono stati numerosi come se non di più quelli dello scorso anno e hanno mostrato un grande interesse per questo settore. C'è ancora tempo fino a domani, infatti si chiuderà domani sera, immagino molti di voi all'ascolto, perlomeno nel nord Italia, andranno a Genova, sarà un'ultima domenica affollatissima. Due informazioni di servizio: inizia alle ore 10, il salone chiude alle ore 18.30, ma attenzione ai numeri perché sono veramente globali, 1500 espositori di cui il 37% è rappresentato da espositori che provengono dall'estero, con 2500 barche, 600 novità, sono numeri che neanche il salone di Parigi, neanche Detroit, neanche il Motor Show sa mettere insomma sul tavolo. E allora iniziamo da Ferretti. Oggi parliamo di chi si occupa di sviluppo e prodotto all'interno di un segmento nuovo, quello dell'ibrido. Intanto ingegnere, lei ha seguito il settore motoristico, l'ibrido ormai non fa più novità, tutti alla ricerca dell'elettrico, batteria al litio. Voi che cosa avete combinato in mare? Beh, vede, l'ibrido è una parola molto generica, rappresenta il miscelare due tecnologie in una. In realtà le novità sono tante e sono nel dettaglio di come i prodotti sono sviluppati. Se parliamo poi di uno yacht di 90 tonnellate, quindi più di 30 volte un grande SUV, che si muove con una propulsione ibrida e che può essere a zero emissioni, parliamo di una cosa assolutamente nuova, di una novità importante per la nostra azienda e pensiamo per la nautica in generale. Voi credete in qualche modo di essere precursori di un nuovo segmento? Io le cito Toyota, con la Prius ufficialmente nei concessionari, ha avuto un successo mondiale, più di 1 milione di vetture vendute, motore termico abbinato ad un motore elettrico e possibilità di recuperare energia per esempio in frenata, un'idea intelligente, neanche troppo difficile da realizzare, oggi già attiva ed è piaciuta molto. Voi che cosa pensate di essere? Precursori? Andrà avanti o sarà una linea di breve sviluppo? Lei ha toccato il punto correttamente. Le imbarcazioni non hanno il freno e quindi non è stato quello il nostro focus. Ecco perché il sistema ibrido del nostro yacht è estremamente diverso. In realtà il focus del progetto, il target del progetto è molto diverso da quello della Toyota. La Toyota ha ridotto i consumi recuperando in parte alcune energie, ma l'automobile non è un'automobile a zero emissioni. Lo yacht invece non si muove nei centri urbani, si muove in zone di alto pregio dal punto di vista paesaggistico, le baie, le zone, le aree protette, le zone in cui il mare è particolarmente limpido. Bene, l'utilizzo dell'ibrido che abbiamo fatto noi è una tipologia di ibrido seriale con alcune modalità operative a zero emissioni. Quindi qualche cosa che ancora nell'automotive non c'è. E la peculiarità di questo ibrido seriale è innanzitutto una grande affidabilità. Ecco perché il sistema è già pronto per i consumatori oggi. La barca non è un prototipo dimostrativo, è una barca in vendita. Questo significa che non c'è motore termico a bordo, solo a zero emissioni? No, infatti i motori termici ci sono, stavo arrivando. Una grande affidabilità in questo senso proprio. L'imbarcazione è tradizionale, ha due motori diesel di propulsione principale e due generatori di corrente che si basano sul motore diesel, quindi sostanzialmente qualora ci fosse qualsiasi tipo di avaria, l'imbarcazione si muove e funziona indipendentemente, sia come sistemi di controllo, l'acceleratore, l'accensione, eccetera, è indipendente, quindi è diesel, proprio perché è un sistema seriale, non parallelo, di ibrido. Quando invece si entra in una zona di pregio paesaggistico o si vuole navigare in totale silenzio, si spengono i motori diesel e si continua la navigazione completamente a zero emissioni con una autonomia valida. Per esempio, noi suggeriamo ai nostri utenti di provare, di testare la funzione plug-in, per esempio, una cosa che nelle automobili ancora se ne parla, nelle barche invece è realtà. Plug-in significa alla sera attacco la presa in banchina, tutte le banchine dei porti d'Italia e del mondo hanno una spina, una presa e spina, alimento le batterie, le ricarico completamente, la mattina dopo esco dal porto completamente elettrico senza disturbare nessuno, in totale silenzio. Vado in una baia vicina, classico weekend, da Santa Margherita Ligure vado a Portofino e ci vado completamente elettrico o nelle rade vicine, rimango 8 ore completamente in silenzio, ma con la barca che funziona tutta. Lei consideri che un'imbarcazione come questa ha un consumo medio di 16 kilowatt, kilovolt ampere. Lei consideri che questo è il consumo circa di 3 o 4 appartamenti, quindi una bella quantità di energia. Bene, la barca può stare 8 ore funzionante a zero emissioni, quindi con le batterie agli ioni di litio, poi accende i motori elettrici e rientra in porto, per cui tutta la giornata di vacanza è stata trascorsa con 20 euro di ricarica. Beh, questo sentito così è davvero innovativo per chi si occupa come noi di motori, perché come lei sa il grande tema lì, avendo anche meno spazio, è quello di trovare batterie concentrate, sicure, che abbiano un'autonomia superiore alle attuali 2-3 ore per piccoli tragitti urbani. Secondo lei è possibile una comunicazione fra il settore navale e uno automobilistico? Assolutamente sì, le tecnologie agli ioni di litio prossimamente entreranno anche nel settore automotive e quindi già avverrà nel 2009-2010 con l'avvento nell'automotive degli ibridi delle grandi case europee. Per esempio Smart ha promesso per il 2010 un'auto finalmente elettrica dalla alla Z con un'autonomia che consenta una buona percorrenza. Un'ultima cosa, che cosa ne farete di questo progetto e quali barche equipaggia esattamente questo motore oggi? Una sola è un project, lei ha detto che però è realtà, è in acqua, quindi lo si può utilizzare su tutte le barche o no? La piattaforma tecnologica della propulsione è nata per equipaggiare diverse tipologie di imbarcazione, è un motore, è un sistema di propulsione. È evidente che noi abbiamo creato un prodotto di lancio attorno a questa tecnologia che ne sposi la filosofia, un prodotto con una grande, si chiama Long Range 23 metri, è un prodotto che ottimizza il gusto e il piacere della navigazione a lento moto e quindi è una forma di vita a basso impatto ambientale anche quando l'imbarcazione funziona con i normali diesel, perché per le lunghe navigazioni, per una traversata da 1300 miglia, questo tipo di yacht accende i motori diesel e lo fa con una carena che è ottimizzata per ridurre i consumi riducendo gli attriti. Molto bene, il futuro sembra quindi giunto qui al Salone Nautico, lo vediamo, lo tocchiamo con mano, domani si potrà farlo fino alle ore 18, in questo caso stand Ferretti, ma tutto il Salone devo dire molto interessante quest'anno. Grazie ingegnere, un'ultima perla in questo senso, lei che cosa prevede per dopodomani? Una domanda che io amo fare a tutti i progettisti di auto e mi odiano quando la faccio. Dopodomani che cosa succederà nella nautica? Ma non domani, dopodomani lontano. Ma io sinceramente in realtà non vedo l'ora, nel senso che credo fortemente che nel 2015 questa piattaforma tecnologica possa essere alimentata oltre che da batterie, magari ancora più evolute, dalle fuel cell ad idrogeno e questo è un qualche cosa su cui stiamo investendo attenzioni e ricerca e che appena possibile, e ritengo non prima del 2015, entrerà a bordo. Grazie all'ingegner Frabetti, si occupa di sviluppo e prodotto all'interno di tutto il gruppo Ferretti. Grazie e a prestissimo. Grazie a voi, buonasera. Quattro ruote e dintorni. Dai motori entro bordo passiamo ai motori fuori bordo, in realtà con qualche novità. Veniamo a trovare uno dei leader del settore, che è Mercury, sicuramente un brand conosciuto da tutti, e il direttore generale di Brunswick Marine o Marine Italia e Sud Europa, Ferruccio Villa. Direttore, intanto buona serata. Buona serata a tutti. Dunque, vorrei intanto da lei una panoramica su quello che avete portato qui al Salone Nautico di Genova, ma più in esteso sulla produzione di Mercury ultimamente. Mercury è il leader mondiale nel settore dei motori da diporto per quanto riguarda fuoribordo e entro fuoribordo. A benzina, joint venture anche con i diesel, con Cummins, con la joint venture CMD. Le novità senza dubbio coprono tutta la gamma di prodotto. Partiamo dai fuoribordo, dal piccolo fuoribordo a 15 cavalli al nuovo Verado 350 cavalli. La gamma Mercury copre tutte le tecnologie. Gamma fuoribordo a quattro tempi, quindi quattro tempi tradizionale, motori aspirati da 2,5 cavalli fino a 115 cavalli, motori a due tempi ad iniezione diretta che rispettano le normative sulle emissioni e consumi particolarmente bassi da 75 a 250 cavalli. E qui troviamo la novità Optimax 250 cavalli presentata al Salone di Genova. Poi abbiamo la gamma che è il top nel settore motoristico di fuoribordo nautica di porto, Verado 350. Ci fermiamo a quest'ultima perché è un po' la novità motoristica del momento, avete fatto parlare di questo motore in tutto il mondo. Che cos'ha di speciale, così lo descrive agli ascoltatori che solitamente sentono parlare di ABS, ESP, di cilindri in linea o boxer? Beh, se vogliamo parlare di ABS, noi abbiamo il DTS, abbiamo l'HPS. Che cosa sono queste? Sono innovazioni che abbiamo introdotto nel settore della nautica. Intanto questo motore è un motore con compressore volumetrico, quindi cilindrata relativamente ridotta, è un 6 cilindri in linea, è l'unico motore 6 cilindri in linea nella nautica, nei fuoribordo, quindi caratteristiche di ottimo bilanciamento, silenziosità assoluta dovuta anche a dei brevetti nella calandra che insonorizzano il motore, compressore volumetrico che permette quindi una grande coppia ai bassi regimi, quindi una grande spinta nel momento della fase di planata, bassi consumi quindi in regimi di crociera. Le caratteristiche poi peculiari, diciamo, non interne al motore ma esterne, quindi al controllo del motore dell'imbarcazione, come potrebbe essere nell'auto un sistema di sterzatura attiva piuttosto che di ABS, sono il DTS, cioè il Digital Throttle System, sono le manette elettroniche, acceleratore cambio a controllo elettronico. Quindi non più col vecchio cavo di una volta, ma controllo proprio elettronico. Esatto, non c'è più il vecchio cavo, ma c'è un drive-by-wire, diciamo così, collegamenti con cavi. L'altra novità che è di serie sui 6 cilindri, sui motori a 6 cilindri, poiché la gamma si articola in 4 cilindri e 6 cilindri nelle potenze da 135 a 350 cavalli, è lo sterzo elettroidraulico. È stato introdotto appunto per la prima volta nel settore nautico, non più uno sterzo meccanico semplicemente idraulico, ma comando elettrico, quindi delle reazioni nulle al volante, un controllo della stabilità della barca immediato per una maggior sicurezza in mare. Chiudiamo anche con le novità, è possibile ottenere anche i finanziamenti oggi nella nautica, un'altra novità. Siamo stati i primi anni fa ad introdurre nel settore nautico i finanziamenti al dettaglio, al pubblico, diciamo così, alla vendita. Sono possibili promozioni che vanno dal tasso zero a delle rate più prolungate fino a 60 rate. Un'altra novità importantissima sono i 5 anni di garanzia. Abbiamo introdotto anche qui primi nella nautica 5 anni di garanzia sui motori fuori bordo. Direi che questa è la prova della qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti. Bene, un grazie particolare allora al direttore generale Villa per Mercury, grazie, a presto. Grazie a voi, buona serata. Salone nautico significa però anche mezzi alternativi, mezzi che sono capaci di far parlare di sé, soprattutto quando sono in acqua. Far parlare di sé ad amanti dello sport, ad amanti della velocità. Mi rivolgo anche ai motociclisti. Infatti parliamo di moto d'acqua. Sea-Doo è uno dei protagonisti di questo settore. Ci fa compagnia Antonio Pescarolo, ne è service manager. Caro Antonio, intanto buona serata. Le chiedo di descrivere un po' di storia di Sea-Doo. Chi è Sea-Doo? Allora, innanzitutto Sea-Doo fa parte della famiglia della BRP che riguarda tutti i prodotti ricreativi per il divertimento degli utenti, quindi abbiamo dalle moto d'acqua agli ATV e addirittura una novità, lo Spider e la moto a tre ruote. Per quanto riguarda questo salone internazionale del nautico, abbiamo la moto d'acqua e abbiamo una grandissima novità. E proprio di questa adesso parliamo. Il paragone con i motociclisti, mi diceva Antonio prima di fare questa intervista, è doveroso, ci spiegherai perché. Che cos'è la novità, come si chiama esattamente, di che tipo di mezzo stiamo parlando? Allora, andiamo a parlare dell'RXT-ES 255, è una moto d'acqua rivoluzionaria per quanto riguarda, infatti la Sea-Doo è la prima casa che ha creato il sistema di sospensioni e di freno su una moto d'acqua o comunque su un prodotto nautico che non era mai prima esistito. Allora, vediamo di fare un attimo mente locale, perché sospensioni e freno sono due oggetti che non ci sono mai stati sulle moto d'acqua. Sospensioni, che cosa vuol dire? Allora, abbiamo delle sospensioni oleopneumatiche che funzionano grazie a un sistema di controllo attivo, che non è altro che un computer, un cervellone che gestisce la stabilità in base al tipo di mare, quindi alle onde, e va a smorzare tutte le onde, appunto gli stress che possono venirsi a causare al pilota, garantendo una guida molto lineare e simile a quella di una grossa berlina di grossa cilindrata. Per fare giusto i paragoni che dicevamo in apertura. E poi il freno, com'è possibile che esista un freno in mare? Appunto, andiamo a parlare di questo freno che è una grandissima novità, perché è un po' il difetto di tutte le moto d'acqua che sono esistite fino adesso. Il freno appunto va a ridurre di tantissimo gli spazi d'arresto di una moto d'acqua, quindi abbiamo un cancelletto appositamente studiato, un cancelletto di retromarcia che funziona elettronicamente, quindi abbiamo un grandissimo controllo elettronico. E funziona elettronicamente, va ad abbassarsi in funzione al comando che viene dato sulla sinistra del manubrio pinzando, quindi come una qualsiasi motocicletta o uno scooter, e va ad abbassare appunto questo cancelletto e crea un'inversione di spinta, quindi il motore regola automaticamente i giri e va a creare un'inversione del flusso che va a frenare appunto il moto dell'unità. Chiudiamo con le prestazioni, velocità, motore e prezzo. Le prestazioni sono grandissime, perché il motore è un 1500 3 cilindri turbo compresso con intercooler, si parlano di 255 cavalli, quindi moto che riescono a dare prestazioni estreme sia per quanto riguarda l'accelerazione che le velocità, quindi abbiamo addirittura modelli che arrivano da 0 a 60 miglia orarie in 2,9 secondi e riescono a raggiungere addirittura le 70 miglia orarie. Quanto costa? Allora, partiamo dai modelli più sportivi, quindi partiamo da un 20.000 euro ai 25.000 euro dell'RXT-ES, che è il modello più tecnologico e quindi più costoso. Chi lo importa Sea-Doo in Italia? Sea-Doo viene importata dalla Blue Dream, che è questa azienda che raccoglie tutti i prodotti ricreativi della BRP tranne la motoslitta, risiede a Padova. Grazie Antonio Pescarolo, a presto e buona serata. Buona serata a voi. Diamo anche uno sguardo all'Oriente. Qui al Salone Nautico sono presenti molti operatori che provengono globalmente da tutto il mondo, ma oggi sulla banchina E9, visitabile fino a domani sera, domenica, siamo venuti a trovare Grand Banks. Grand Banks è un cantiere che proviene da Singapore. Ce ne parla il titolare per quanto riguarda l'Italia di Grand Banks, Gianpaolo Murzi. Buonasera intanto, Murzi. Buonasera a lei. Per i nostri ascoltatori, forse meno abituati a sentir parlare di nautica dall'Oriente, fa una panoramica sulla storia di Grand Banks. Chi è Grand Banks e che cosa propone nel mercato globale nautico? Grand Banks come cantiere nasce ad Hong Kong nel 1957, proponendo delle imbarcazioni che si chiamano trawler, vale a dire delle imbarcazioni adatte alla pesca nei grandi banchi dei mari nel nord-est dell'Atlantico. Dopo, diciamo, le prime linee di imbarcazioni trawler, cantiere Grand Banks si trasferisce a Singapore negli anni 70, inizia la costruzione di barche in vetroresina, sempre su questo filone. Nei primi anni 90 iniziamo a produrre un genere di imbarcazioni diverso, vale a dire le cosiddette down-east, ora conosciute come lobster boats, vale a dire imbarcazioni plananti, abbastanza veloci, nel range di 25-30 nodi, in grado di navigare con qualsiasi mare, ma essere anche, diciamo, usufruibili a velocità più basse dell'ordine dei 14-15 nodi. Cantiere Grand Banks attualmente nei due stabilimenti di Singapore e Malesia impiega circa 1300 persone e costruisce tre linee di imbarcazioni. La serie Heritage, quelle che si rifanno ai vecchi trawler nelle misure 41, 47 e 52, la serie East Bay, della quale parlavamo prima, imbarcazioni down east nelle misure 39 fino a 55 piedi, interamente progettate negli studi Raymond Hunt americani, E la terza serie, della quale ci troviamo a bordo, il 72 Aleutian, queste sono imbarcazioni progettate da Sparkman Stevens per quanto riguarda il 59, da Tom Fexas nelle misure 65 e 72, con delle linee molto accattivanti, in grado sicuramente di conquistare anche la nostra clientela. Parliamo adesso invece di novità presentata proprio qui al Salone Nautico. Avete voluto in anteprima far vedere esattamente che cosa? Nella linea East Bay, un modello 45 nuovo, sempre progettato dallo studio Raymond Hunt, un'imbarcazione che offre ampie volumetrie interne, limitatamente diciamo alle dimensioni di 45 piedi, due cabine molto ampie servite da due bagni, un'ampia doppia dinette con cucina in alto, un pozzetto veramente notevole e soprattutto grandi aree prendisole nella parte prodiera. Per quanto riguarda i motori e le prestazioni, che cosa propone questo nuovo 45? Due motori Cummins da 550 cavalli della serie Quantum, con ottimi rendimenti termodinamici, in grado quindi di spingere l'imbarcazione ad un regime minimo di planata di 14 nodi con consumi irrisori, potendo però permettere di raggiungere 31 nodi di velocità massima e soprattutto di mantenere in un range di 23-25 nodi veramente con qualsiasi mare, perché queste imbarcazioni hanno una carena, una tenuta di mare veramente incredibili. Grazie a Gianpaolo Murzi, il titolare di Grand Banks Italia. Grazie a voi, buonasera.